all'improvviso non escono. Dove saranno? Dove saranno? Che disperazione, guarda bene. Un giorno gli intellettuali torneranno, sarà tutto diverso, essi non venderanno più le penne, come si racconta, erano indicibili orrori, facevano specie umana. Loro però torneranno uscendo dalla tasca, il loro ruolo finalmente lo avranno, riavranno come società. La società tira un sospiro, essa sorride, va incinta sui denti, ridenti, motoveicoli, si va al mare, Ostia, a Fregene, tutte le mamme ai balconi coi bimbi, ridete, mentre la primavera guariscono per sempre dalla rinite. Altrimenti dopo gli va in crack l'agenda, per allora sbaglia un tasto, niente gita, essi vorrebbero tornare alla ribalta, con una invincibile ribalta, e si risarciscono, o il sole arriva, loro vogliono riaversi e fare la vendetta delle ingiustizie subite durante ciò, interpretare la voce del popolo anche in sua assenza. Quadro, quadro, esclamano, c'è un attimo da aspettare che torni il tempo, poi accadrà. Questo documentario è di grande interesse. Vedono un documentario sugli assiri. Spiega come manufacevano i manufatti, andavano svelti anche sui diritti umani, c'era una superficialità, morivano come le mosche. Mi scuso di questo terribile ritardo, dovuto al fatto che abito lontano, appunto devo prendere atto che ci vuole un'ora e mezza e non un'ora e dieci. Torna a Monteverde. Torna a Monteverde. No, ti preghiamo tutti. E per di più è stata una cosa un po' buffa, ve la racconto, perché ero su un autobus 982 che andava velocissimo. Cioè, ero anche molto contenta perché stavo per arrivare quasi puntuale e questo era un guidatore spericolato, però era, per cui a un certo punto ha rischiato di falciare dei pellegrini davanti a San Pietro strombazzando, per cui ero perplessa, preoccupata, però contenta. E poi invece si è capito perché faceva così in fretta, era a fine turno e a Piazza Risorgimento si è fermato perché c'era il cambio con l'altro autista. Quindi attesa dell'altro autista, cambio, e il secondo autista, che era inizio turno, invece andava lentissimamente, per cui questo ha aumentato nel tempo. Va bene, detto questo, allora, tanto grazie per essere qui e grazie a Marco, alla Marco Giovenale. Allora, vorrei sapere una cosa prima di parlare, ed è quanti di voi avevano mai sentito o letto i testi di Marco? Vabbè, no, c'è un folto pubblico di già conoscenti. Comunque, per chi non lo conosce, forse la poesia di Marco, questa che ha letto come introduzione, può risultare spiazzante, non assomiglia a molte delle poesie che si ascoltano o si leggono di questi temi. E questo non è un caso, nel senso che Marco è un... è un poeta che fin dall'inizio ha, come dire, cercato di percorrere delle strade meno battute. Dopodiché c'è tutta una querela, una discussione su come chiamare questo poeta, non solo Marco, ma questo gruppo, se si parla di poesia di ricerca, se si parla di poesia sperimentale. Poi ci sono delle... non entriamo dentro questa possibile polemica. Però è un dato di fatto che almeno, pur essendo Marco una persona di larghissime vedute, come vedremo, nel senso che rispetto ad altri poeti di ricerca, Marco abbraccia anche un tipo di poesia, legge anche un tipo di poesia, come dire, che non è connotata come poesia di ricerca. Però diciamo non rientra volutamente, direi, nella tradizione della poesia lirica, che è quella a cui di solito si pensa quando si pensa alla poesia. Anzi, Marco di recente, non mi ricordo che sito, poi vi dirò anche qualcosa di più di Marco come di attività, ha scritto una cosa tipo che sono irricevibili i neocontenutismi. Adesso ne parleremo. Comunque questa è una osservazione e ha anche così, come dire, ironicamente, è quanti lati ha la cella delle api. Questo è a proposito del neocontenutismo. Direi che dalle dalla poesia che ha letto. Allora, poesia, non so se vi ha letto la nota che... Ah no, hai ragione. Ecco, la nota che finisce oggettistica. Allora, tanto vi faccio vedere... Marco scrive tanto, posso dire, sì, direi che è un dato di fatto. Ci sono molte sue raccolte, io ho uno scaffaletto giovenaliano che però non comprende tutta la produzione giovenaliana. Io ho portato due dei miei libri preferiti di Marco, a parte i più recenti, Scelte e La casa esposta. La casa esposta è anche molto interessante perché comprende anche la ricerca di Marco nel campo delle immagini. Però il testo da cui ha letto è questo, poi leggerai se non sbaglio, sì, anche da anche questo, La gente non sa cosa si perde, che è edito da Tic, e poi sempre da Tic è questo Oggettistica. In Oggettistica Marco fa una nota finale che dice: Oggettistica non è un libro di poesie, anche laddove alcuni insistiti a capo o una voluta assenza di giustificazione delle immagini possano forse suggerirlo. Allora, nel senso che diciamo che Marco ha un rapporto interessante con la poesia, è uno dei poeti appunto più attivi sia nella scrittura ma anche nella promozione della poesia, è posso dire una parola un po' forte, quasi un missionario, ha un sito... Preferisco militante. Diciamo, militante, missionario, chiamiamolo, comunque fa tanto anche per far conoscere le poesie degli altri, anche a volte poesie che appunto non rientrano strettamente, certo, in quest'area. Direi che in più è anche militante e missionario per quello che riguarda certe posizioni politiche in cui Marco crede fortemente. Direi che è molto interessante la poesia sugli intellettuali, perché se io penso oggi a un intellettuale penso a Marco, perché proprio l'intellettuale, la persona che non va in televisione, non ha la telecamera che lo inquadra, però è veramente il discendente dell'intellettuale novecentesco che non sta zitto. Marco in questo periodo ha un'attività frenetica che io credo di fare abbastanza, ma Marco batte tutti nel, per esempio, far sapere che cosa sta succedendo a Gaza, nel prendere, appunto, nel far circolare informazioni. Quindi abbiamo questa, da una parte questa enorme attività, dall'altra però un atteggiamento verso la poesia che è in apparenza di rifiuto. Diciamo che secondo me Marco rifiuta la poesia fra virgolette, o la poesia che dir si voglia. Ti riconosci in questo? O quella che Jean-Marie Glaise, un autore che sta alla base di quell'espressione che forse avete sentito, prosa e prosa, chiamava re-poesie, cioè la ripoesia, cioè la riproposizione di moduli e forme sostanzialmente fortemente logorate dal passaggio del Novecento. Quindi, ecco, in questo senso mi riconosco in un'idea di post-poesia, ma anche per un altro motivo, l'abitudine che abbiamo a un certo tipo di scrittura, un certo tipo di assertività, che molta parte della scrittura contemporanea o degli ultimi 30-40 anni ci ha proposto, questa abitudine forse... toglierei anche il forse, ha nella editoria contemporanea e soprattutto in ciò che prevale sull'editoria, cioè la distribuzione libraria, e che orienta spesso o sempre le scelte editoriali, ha fatto sì che una parte consistentissima di materiali, soprattutto non italiani, ma non anche molto italiani, rimanessero oltre confine, quindi non venissero tradotti. Tutta la vicenda che porta a questo libro e a tanti altri che sono usciti, ci sono anche amici qui in sala che si orientano nella stessa direzione, tutto è un po' cominciato col desiderio da parte di un gruppo di persone, continuato perché in realtà c'è una tradizione di sperimentazione, di alternativa alla poesia, anche ovviamente in tutto il percorso degli anni 70 e parte degli anni 80, pensiamo ad Adriano Spadola, a Corrado Costa soprattutto, eccetera, però una parte consistente della editoria e della distribuzione che la guida contemporanea si rifiuta alla importazione di materiali dalla Francia, o comunque francofoni e anglofoni in generale. E a far tempo, da circa l'inizio degli anni 2000, io con altre persone abbiamo iniziato a voler invece importare e tradurre anche gratuitamente, e anche facendo leva soprattutto su quella grande disponibilità e possibilità di spazio che dà la rete, materiali di questo genere. L'abbiamo fatto, sto parlando di Michele Zaffarano, che non a caso dirige questa collana, e di Gerardo Bortolotti, che invece si occupa più dell'area anglofona, mentre Zaffarano è un traduttore dal francese, e Alessandro Broggi, che è un attentissimo lettore della situazione delle arti contemporanee soprattutto. Questo gruppetto di persone hanno fondato un sito che si chiama gamm.org nel 2006, prima come blog e poi è diventato un sito e tuttora è attivo, e che ha proposto autori su autori su autori appunto di quelle aree linguistiche. Parliamo di lo stesso Jean-Marie Glaise, Jean-Michel Espitalier, Henri Michaud, sono tantissimi, e anche autori classici di un certo tipo di tradizioni, quindi un autore come Francis Ponch, per esempio, che, caso eccezionale in Italia, ma non è l'unico ed è la dimostrazione di quello che ho appena detto, riceve una traduzione nel 1978-79 e del suo Partito preso delle cose, e poi sparisce dall'editoria italiana. L'editoria italiana sembra completamente ignorare quel versante oggettuale, quel versante non metaforico, quel versante letteralista, se vogliamo, che è un'espressione che è stata usata altre volte, delle scritture mondiali, perché sono le scritture che esistono e che in altri paesi hanno distribuzione ampia, sembra ignorare completamente l'esistenza di queste realtà. Noi abbiamo sopperito per quanto abbiamo potuto, sono passati 20 anni, la situazione è migliorata? No, però abbiamo fatto il nostro, quindi poi dopo, quando il sito e altre strutture che si occupano, anche case editrici eccetera, che si occupano di queste cose, non ci saranno più, ci sarà qualcun altro che farà la stessa cosa. E tutto questo fa sì che si possa parlare legittimamente anche in Italia di post poesia, cioè di qualcosa che non è poesia in quel senso, anche perché molta parte di questi materiali che vengono pubblicati in altri paesi, ma anche ormai in Italia da tempo, allargano talmente tanto l'idea di poesia, ma anche ci sono materiali oggettuali, ci sono performance, ci sono cose che non finiscono in un libro, ci sono materiali audio completamente poi dissipati, che a forza di allargare il contenitore poesia, questo contenitore perde di senso. Quindi parlare di post poesia in questo senso non è assurdo, ha il suo perché, perché altrimenti possiamo chiamare tutto poesia, anche una finestra è poesia, anche, e questo allargamento può portare appunto a un cambio di definizione, o quello che spesso e volentieri io chiamo cambio di paradigma, che io collocherei, l'inizio di questo cambio di paradigma lo collocherei a quel 1961 che vede la pubblicazione dei Novissimi, ecco. Ma poi su questo si aprono ancora altri discorsi. Allora, mi fermo. No, su questo ti fermo, perché sì. Da questo volevo anche riprendere. Intanto avete sentito come Marco non ha risposto parlando di sé, ma ha immediatamente posto la sua figura, i suoi testi all'interno di questa rete. È quello che cercavo di dire prima, usando la parola missionario o militante. Marco non è, in qualche modo non è mai da solo, pur essendo autore che firma dei libri, cioè non è che si nasconda. Allora, su questo, mi fermo proprio sui Novissimi, perché molte poesie di Marco a me ricordano, chiaramente non dico che siano ricalcate su quello, ma certe poesie di Nanni Balestrini. Nanni Balestrini, che è stato uno dei Novissimi, che ha avuto un ruolo importante e come poeta e come autore e come grande organizzatore, grande motore, appunto, tu citavi Spatola, citavi Corrado Costa, diciamo che dietro di loro c'è la grande macchina funzionante di Balestrini. Allora, Balestrini ha una tecnica poetica che non è lontanissima dalla tua. Non so se recupererete in rete un video di Antonio Rezza, Bastacani. Bastacani è una poesia di Nanni Balestrini che direi tu dovresti sentire molto certo. Affine. È una poesia che si gioca, come quella che avete sentito, su una ripetizione e un gioco per cui certe espressioni fisse vengono come dire, sabotate con l'uso della parola cani, così come potete aver sentito prima, intellettuali. E però io con Balestrini ho avuto una lunga collaborazione. Una delle cose che a me irritavano di più di Balestrini, quindi te la metto anche come provocazione a te, negli ultimi anni soprattutto Balestrini sosteneva quella che in parte sostiene anche tu, che è l'idea della poesia come puro suono. Lui proprio negli ultimi anni lo si diceva, la poesia è puro suono. Dovete sapere che una cosa di cui Marco non ha parlato, di cui poi ti chiedo di parlare, è il tuo sostegno alla poesia asemica, ai testi asemici, che vuol dire appunto in cui il suono prevale sulla... Mi ti fermo. Vai. No, per certi aspetti è il contrario, nel senso che l'asemico è totalmente visivo. È totalmente visivo, però diciamo prescinde... Dalla decodifica alfabetica. In questo senso, c'era affinità. Dunque... E una frase che diceva Balestrini, che a me appunto irritava molto, era dolce e chiara la notte senza vento, non è una report meteorologico. Non è un report meteorologico. Certo. Ora, d'accordo, non è un report meteorologico, ma non possiamo neanche prescindere dal fatto, almeno secondo me, cioè io continuo a pensare che la caratteristica della poesia, e scusami, ma anche della post-poesia, è che sia un precipitato di suono e di senso, in cui le due, cioè questa, se mi dicono cos'è la poesia, dico è questo. Ecco, come la vedi tu? Dolce e chiaro la notte senza vento, è un report meteorologico o è un puro suono? Come la metti tu anche nei tuoi testi? Perché i tuoi testi, pur essendo antineocontenutistici, poi in realtà, come anche quelli di Balestrini, hanno invece una fortissima valenza, scusa la parola, contenutistica. E sonora, se vogliamo. Sonora, certo. Poi parleremo anche del sonoro, però dopo. Ecco. Pensiamo a un testo di Balestrini come I funerali di Togliatti, per esempio, dove Togliatti non c'è, non ci sono funerali, non c'è nessun morto, non è successo, non sembra non essere successo niente. Che cosa c'è? C'è una continua iterazione del colore rosso, attraverso soprattutto un paesaggio di piante, di fiori. E quindi questo rosso torna dappertutto ed è ossessivo ed è quasi stancante. E sono chiaramente tutte frasi, come nell'ordine delle cose balestriniane, spezzate, per cui ci sono dei fiori che vengono tagliati anche come versi. A cosa fa riferimento Balestrini? Fa riferimento al celeberrimo dipinto di Renato Guttuso, dei funerali di Togliatti, con tutte le bandiere rosse innastate ovunque, no? Questo quadro completamente disseminato di rosso. Ecco, con Michele Zaffarano più di una volta è capitato di performare questo testo e quindi di, alternando le voci, di far balenare questo rosso. Però diciamo che comunque il passaggio, il percorso del lettore verso lo spostamento verso il rosso del lettore è uno spostamento che deve fare il lettore. Cioè, voglio dire, non è preinscritto nel testo. Quindi quello che io nego è che ci sia una natura, diciamo così, sostanzialmente vocale o di qualsiasi altro genere nel testo. È una cosa che ci mettiamo noi lettori in tutti e due i sensi, lettori esecutori verbali o lettori che ricevono il testo, aprono il libro e lo leggono. E mettiamo la vocalità, mettiamo le cesure, mettiamo le spezzature, e se abbiamo presente il quadro di Guttuso ci mettiamo pure quello, anzi soprattutto quello, perché è quello che dà il senso al discorso di Pasolini, di Balestrini, appunto. Tanto. Un ritorno al 1957. Pasolini Sanguinetti però era lì. Sì, vabbè. E quindi a mio avviso il fatto per esempio che io legga un testo come quello che ho letto prima e gli dia un certo andamento è ovviamente una volontà mia personale di diciamo incontrare a metà strada il lettore, senza però dirgli guarda devi arrivare qui, devi fare tutto tu il percorso, o senza fare tutto io il percorso. E quindi è una sorta di contrattazione, io la vedo così, cioè non è la natura del testo a... Però è anche vero che poi ci sono dei testi che la cui natura è talmente estrema, sono dei testi per esempio che comprendono una performance del lettore in giro per il pubblico, e lì effettivamente è difficile allargare il contenitore poesia per farci stare anche quello. Se parli di post poesia lo fai forse più facilmente e non necessariamente... diciamo puoi anche per esempio includere nel testo scritto le istruzioni per l'esecuzione, e chi legge non ha la parte vocale assolutamente, però capisce cosa sta succedendo in sala. Per esempio poi taccio, noi leggiamo oggi come poesie o come testi produttori di senso degli scores di Allan Caprow per esempio, no? Cioè persone che si incontrano, si guardano in volto, si stringono la mano, si riallontanano, no? Ci sono queste istruzioni per fare queste azioni, no? Che fanno, quindi sono semplicemente delle istruzioni, non hanno nessun senso dal punto di vista né artistico né letterario, e l'azione messa in scena da delle persone avrebbe senso, e quella è stata l'azione artisticamente connotata. Però noi prendiamo questi testi, oggi li leggiamo in quel senso lì, c'è una cosa che gli attribuiamo noi che non stava nella natura del testo. Allora, inserisco soltanto questo, chi è venuto qua all'incontro con Gilda Policastro, Gilda ha fatto un esperimento di questo tipo, ha consegnato dei testi, delle frasi che lei raccoglie in giro per la strada, e poi c'è stato una specie di coro. Di questo genere. Allora io però qua mi fermerei e ti chiederei di leggere i testi, direi di leggere in ordine quei testi che si era detto, a cui aggiungerei i terribili casi di bruxismo che tu mi avevi inserito. E lo leggiamo per primo se vuoi. No, tu avevi messo per prima Angoscia, ma forse no, comincia allora dai terribili casi di bruxismo, direi che potresti leggere. Ricordami a che pagina? Subito dopo, 33, poi il lago, gente al lago, perché così ci ricolleghiamo anche alla natura che è, e non richiede, direi che puoi leggere queste tre cose. "99 terribili casi di bruxismo. Nel 1950 la società fu messa in liquidazione, nel 1957 resistevano i libri contabili, era tempo di cambiare. Nonostante la sua avversione al giardinaggio, non è infastidito dal tagliaerba, dal rumore del filo che gira e pareggia il prato, cerca anzi quel rumore, ne ha memorie infantili probabilmente, non lo possiamo sapere. Sappiamo che lo registra e se lo ascolta in cuffia, in tratti diversi del giorno e della notte. Era molto severo con i propri fratelli, li rimproverava di non aver lavorato quanto lui, loro avevano avuto una vita diversa, sorte diversa, era non solo inutilmente severo, ma perfino aggressivo. Questo generava un diffuso dispiacere e talvolta un diffuso malumore, il dispiacere si diffondeva, talvolta il malumore. Il bruxismo consiste nel digrignare i denti durante il sonno, inconsciamente, così logorando sia lo smalto dei denti che i muscoli e i tendini della mandibola." Non richiede? No, prima hai detto... No, Lago, gente al lago, pagina 46. Il lago, sì, pagina 46. "Il lago, gente al lago. La gente si vuole divertire e non ci pensa. Vuole ridere dopo che ci ha pensato. Si ferma sul lago. Il lago è storto, ha messo male. Forse avranno messo male la cartina, ma guardi fuori, ok, in effetti è sbagliato, va da un'altra parte. Come mai? Chissà come si potrà mai raddrizzare, vuole ridere dopo. Intanto divertiamoci. È spensierata, tenta di esserlo, se deve. Se c'è da fare una telefonata dolorosa, le unghie attenuano quella sgradevole sensazione. morderle. Scende a prendere il kebab, uno, forse due. È una fonte di gioia non pensare che una volta qui era tutto tuo, o buio, o prima buio, poi tuo, viceversa. Ti hanno rubato tutto, non lo recuperi, è perso, pensa. No, a ridere devi pensare. Si vogliono sbarazzare del recupero crediti, dell'intermezzo, di front rail, vogliono fare una festa dietro l'altra. Riempiono l'attico. L'attico è pericolante, ma ci si va per scherzare le feste. La gente si vuole, così si vuole, e si vuole distrarre, svaga, si conforta con poco. Kebab, servizi, agosto, stacca il selciato, pasticceria, confetteria, capriate, dismissori, i coordinatori per orientarsi. Per il ritmo, volendo. Dove c'è ritmo, c'è lira, c'è allos, verticale. Non richiede. E poi mi fermo. Una volta perimetrato l'orto, puoi tirarci l'insalata. Non essendo in grado di piantarla, ne getti le foglie, memo, acquistare in precedenza, all'interno del perimetro dell'orto. Tiri le foglie dentro l'orto da fuori. Avrai in tal modo dell'insalata all'interno del tuo orto. È possibile affermarlo. Essendo definito orto, inevitabilmente contiene degli ortaggi. Se tu avessi delimitato una cinta con un'area cittadina, avresti veduto crescere negli anni invece una città. Sono piccoli accorgimenti, gli strumenti di misura sbagliano solo un po' e solo qualche minuto, basta un po' di attenzione per fare le correzioni. Non ci si improvvisa agricoltori o contadini, occorre una lunga saggezza, tuttavia si possono lanciare delle piante da un posto all'altro, non richiede preparazione. Succede quando... Allora, ci sono due... Quindi chiederei di parlare. Uno è come, vorrei che proprio questa volta tu parlassi proprio di te. Cioè, un tempo tu non leggevi le poesie così, scrivevi altre poesie. Ecco, se penso ai tempi di Scelte, il libro che tra l'altro appunto io ho proclamato, certo. Io ti ho sentito leggere poesie di Scelte, le leggevi diversamente. Sì. Questa è una cosa su cui vorrei che tu parlassi, di questa tua evoluzione e nella scrittura e anche in quella che si chiama performatività. Te lo rubo un attimo, così poi dopo ti rispondo anche con un esempio. E l'altra domanda che in qualche modo è connessa e anche un po' quello che dicevi prima è, succede spesso che quando tu leggi le persone ridono, cioè c'è un elemento comico che di solito nella poesia, con tutte le virgolette che vogliamo mettere nel caso, non c'è. In questo riprendo anche un'altra cosa che hai detto prima, nella poesia italiana spesso non c'è, certo. Raramente c'è, mentre c'è per esempio nella poesia anglosassone di lingua inglese c'è un qualche Fiorenza Mormile che a suo tempo ha tradotto coraggiosamente delle poesie diciamo comiche, è molto difficile da fare. Allora, ecco, io vorrei che tu parlassi della tua performatività e del tuo rapporto col comico. Sì. Allora, più che performatività mi piace sempre parlare di esecuzione. Esecuzione. Esecuzione del testo, che ha anche il significato dell'ammazzare il testo. In qualche maniera tu fai, lo imposti sul registro, inevitabilmente comunichi, e comunichi di più che non lasciando il libro alla persona, lasciando a lei la lettura, però in qualche maniera anche imposti un certo tipo di variabili, di suono, di senso e di rapporto suono-senso, per far sì che poi quella persona decodifichi secondo inevitabilmente quel tipo di esecuzione. Va detto che l'esecuzione di volta in volta dei testi, questo ne dimostra la loro natura plastica, inafferrabile, eccetera, dei testi di ricerca cambia, può cambiare anche molto fortemente da una esecuzione all'altra. Mentre per testi, diciamo, di poesia, diciamo così per intenderci semplicemente, poi bisognerebbe stare a fare mille distinzioni di lana caprina, non sono in grado io, e la cosa è un po' diversa, nel senso che diciamo per motivi un po' metrici, un po' di rapporti prestabiliti tra suono e senso all'interno del testo, la gabbia è un po' più stretta e quindi è facile che appunto l'impressione sia inevitabilmente di diciamo regolazione più misurata, ecco, della lettura. Questo per quanto riguarda appunto la performance e l'esecuzione. Avendo un diciamo un un elemento di, come dire, di gioco. Di, Vito Riviello avrebbe detto poesia giocosa, no? Giocosità, leggerezza, ironia soprattutto, almeno tendenzialmente, io spero soprattutto questo, anche nei testi che sembrano più seri c'è sempre un filo di ironia e non si sa mai se effettivamente il testo è detto, è pronunciato per essere inteso letteralmente o se è in realtà il contrario. Ecco, quando c'è quel versante lì, diciamo, la forbice della possibilità di esecuzione è molto ampia, lo puoi tragicizzare o lo puoi rendere una burletta. Io cerco di tenermi nel mezzo per evitare, insomma, di fare il clown. Ecco, questo non mi piacerebbe. Fai delle prove? No. Di solito, no, di solito è il contesto che mi restituisce un po' anche le sensazioni dei lettori, e quindi per rispetto a loro cerco di capire, sì, esattamente. A me sembra che, insomma, di aver letto in maniera, ma anche l'ambiente, l'eco, ci sono anche faccende fisiche che chiaramente, se usassi il microfono sicuramente si sentirebbe meno bene che con la voce, eccetera. E invece sul rapporto con... Sì. No, anzi, importante. Allora, io sono sincera, dato che io probabilmente ormai forse lo ce ne anche meno bene, prima, eccetera, però mentre io trovavo questa esecuzione molto efficace da certi punti di vista, però mi faceva, proprio sono sincera, sì, l'effetto di quando ascolto un messaggio a 1,5 invece che a 1. Allora, volevo sapere se questo rientrava nella tua volontaria scelta comunicativa, come dicevi tu, dobbiamo a metà, però data la molteplicità caleidoscopica di questi accostamenti, no, che sono appunto di oggi, eccetera, personalmente io, che evidentemente sono un po' lenta, allora voglio capire se tu ci tieni a creare questo effetto d'ansia nell'ascoltatore, oppure sono solo io che sono decotta. No, perché no, fa un po' parte del gioco, fa parte del gioco, e fa parte del porgere in maniera, appunto, da, come hai detto giustamente tu, da accelerare il processo di decodifica delle connessioni, in maniera che magari non è l'intenzione essere ansiogena, però può effettivamente verificarsi questo. L'idea sarebbe anche quella di spingere il lettore a procurarsi il testo, forse le memorie del libraio, sono stato libraio, quindi comprate questo libro. È assolutamente pubblicità alla fine, scherzo. È anche vero che è anche una, diciamo, per rispondere alla seconda domanda alla seconda parte della domanda di Maria Teresa, è anche la, come dire, un po' identità mia, cioè io ho cominciato a iniziare a accorgermi che a velocità leggermente maggiore questi testi funzionano meglio, però posso sbagliare e non è detto che funzionino meglio per tutti, quindi questo è tranquillamente, lo ammetto. E però, per rispondere anche a Maria Teresa, sul discorso del comico c'è anche un'accelerazione che spinge il lettore a far collimare e non collimare le frasi, e questa specie di glitch che io do, questo spin un po' a troppo accelerato, secondo me è parte dell'effetto, diciamo così, giocoso, fa parte del gioco, come quando uno in prossimità del canestro accelera al palleggio, cioè è una cosa che ha grosso modo. Se... A me viene in mente il cinema muto, nel senso che quando, cioè, è assurdo pensare a te che legge poesia, a me viene in mente il cinema muto, ma vedete quando si vedono le poesie, il cinema muto che è accelerato, cioè che, certo, si vede, perché il passo della pellicola, certo, è accelerato. Ecco, questa era la sensazione che a volte avevo io. Allora, andando su Shelter, che citava prima Maria Teresa, vi leggo solo due testi, spero abbastanza brevi da non farci debordare dal programma. Il programma è sempre molto elastico. Quindi... No. Però magari loro alla fine non ne possono più. Non ne potete più? No, spero che siate ancora vivi attivi. Poesia, post-poesia, per certi aspetti, nello stesso libro, comprate questo. Scherzo. vero, allora, no, ho detto Marco. Marco è stato a lungo, a lunghissimo. Beh, 10 anni. Dieci anni, insomma, un ottimo, meraviglioso libraio di libri, d'antiquariato, d'occasione. Se uno aveva bisogno di un libro, chiedeva a Marco, Marco lo trovava sempre. Lo faccio ancora adesso, volendo. Ecco, lo fa ancora adesso. Sì. Senti che, ecco così. Cioè, è pieno di pubblicità. Sappiate. Scusate. Allora. Questo libro è diviso scelta e significa sia riparo sia anche prigione, però, per cui scelta in inglese può significare anche il canile oltre che l'ospizio, e l'ospizio sappiamo benissimo che può essere per alcune persone sia un luogo di rifugio sia un luogo di detenzione, e tutte le sezioni del libro si intitolano Clinica 1. Quindi è come se clinica 1, come se si vedesse questa indicazione sopra la porta, si uscisse, ma per trovare un'altra porta che ci riporta sempre allo stesso luogo. Quindi è un po' anche un tentativo di ripercorrere dal punto di vista formale dell'architettura del libro quella che è l'ossessione circolare di questi, che un po' pervade inevitabilmente a volte purtroppo questi luoghi. E a volte ci sono delle figure che sono non narrate, ma ecco, trattate e esplicitate in questo modo, come in questa poesia. Non si libera dagli aghi, se ne veste, vive nell'ultima stanza. Aspettiamo che poi in realtà è solo l'inizio. Succede che io lo trovo così. Non si libera dagli aghi, se ne veste, vive nell'ultima stanza. Ogni volta sta varando il vascello con lo sguardo nella fontana fuori, dove la potrebbero condurre, ma non vuole. Dai 7 anni, mentali e non mentali, non si strecciano il colore cenere, la testa, gli occhi. Non possono trovarla assiderata, piuttosto a contare sul balcone, che sarebbe il margine alfa della storia, da dove la contesta e può ascoltarla. Due fibbie alle scarpe slacciate, rientra sempre e cammina sempre scalza contro la parete. Lì sta bene. Lì, dice alla fine della casa, mi riconoscete. Chi manca è più nitido, si prende la ragione. Ecco, io la leggo sempre così, non credo di aver mai variato la lettura. Mentre questa qui, che è una sezione centrale, che si intitola Solutus, è come una sorta di scioglimento, che in realtà è un annodamento in qualcosa di più, diciamo, complesso, ha testi che gioco forza vanno letti non troppo lentamente, e dicono, uno di questi, l'ottavo, dice così: palloni di carta, parasoli di carta, bambini di carta, quello che vedo. La stessa cosa che vedi tu, un viso comune, capelli neri, occhi piccoli, un mento appuntito. Allora non è la faccia che stai guardando. Preferite che comunichiamo in questo modo? Per me non ha molta importanza. Quindi senti quello che faccio, vi lascerò scegliere, mi dispiace, questo non si può fare altro che... È per questo che siamo qui, a che ti servono? Sono molti anni, come fa a saperlo? Se la riconosco là in mezzo, il fabbricato in fondo alla strada, la finestra all'ultimo piano. Ho capito, potrebbe essere chiunque, in realtà le assomiglia. Le piace curiosare però, vedere come si fa. Quella è la cantina. Pensi che abbia commesso qualche reato? Casualmente, sì. Ci ha fatto entrare in casa. Speriamo che R ce lo sappia dire. Quando parleremo con lei, pensi di poterle parlare? Vedrai. No, non è chiuso, è bloccato. E il testo, che non dice niente, non racconta niente, penso che abbia qualcosa di inquietante, che va allo stesso modo che altri testi che non c'entrano niente con l'inquietudine, affannato, e non c'è una parola in questa sezione centrale del libro mia. Cioè è un, non dico qual è il meccanismo, però non sono testi miei. Allora, scusa se più. Mi fa piacere che tu l'abbia sottolineato, perché appunto in realtà accennavo prima, anche quando facevo riferimento a Balestrini, certo, a Bastacani, tu attingi da molto tempo e ancora adesso alle voci che si ascoltano, mentre non hai, almeno non mi pare che tu abbia, è una domanda, che tu faccia molto riferimento a quelle che sono le forme, la metrica per andare. Lo dico perché l'altro giorno c'è stata una presentazione da Ciurmo del libro del nostro, sì, comune Tommaso Tonieri, nella poesia di Tommaso, altrettanto cioè pure essa sperimentale, c'è invece molto, l'ha anche ammesso, cioè l'endecasillabo ogni torna, tanto affiora, torna. Certo. Com'è il tuo rapporto? Allora, anche per avvicinarci a quello che dovrebbe essere uno del filo conduttore di questi incontri, con appunto la poesia, non parlo della poesia contemporanea, lirica contemporanea, ma grande, tutto quello che abbiamo alle spalle come poesia italiana, da Dante a Leopardi, e nella fattispecie, visto che di questo dobbiamo parlare, esiste un modo per parlare di natura così come appunto dovrebbe essere qua uno dei riferimenti? E poi leggi dopo, rispondi e poi leggi. Sì, un altro segmento. Certo, allora le mie letture sono iniziate, diciamo, un'impronta molto forte mi è stata data nel 1986-85 dall'incontro con, quindi avevo 15 anni, 16 anni, con Montale e con Eliot. Nel 86 esce la seconda ristampa dell'edizione Serpieri della Terra Desolata o Terra Devastata, nella nuova traduzione di Carmen Gallo. E queste due cose in qualche maniera si congiurano insieme all'uscita del meridiano, di uno dei due meridiani di Borges, però in realtà quello della prosa, se non sbaglio, che preferisco infinitamente alla lettura della poesia di Borges, diciamo cospirano a un'impronta tutto sommato, tranne Eliot e le sue schegge, le sue rovine, e i suoi frammenti che puntellano le sue rovine, ecco, diciamo, tranne Eliot, cioè, cospirano molto fortemente a un impianto, diciamo, metricamente molto, insomma, connotato e organizzato, ma anche Alfonso Gatto, altri autori chiaramente del Novecento, ma di un Novecento che non è sicuramente, diciamo, non poteva esserlo post-poetico, anche se ovviamente poi c'è il Montale dal 1971 in poi, quindi c'è il Montale da Satura in avanti, e che infatti non a caso era quello che mi prendeva meno, perché insomma mi sembravano un po' notazioni... Volevi il Montale, cioè il Montale di Satura... Esatto, ma... esatto, e quindi diciamo che forse la chiave per smontare Montale, scusate il gioco, è stata proprio Eliot, è stata proprio l'emersione di questi frammenti caduti sulla pagina, che gioco forse è dal punto di vista culturale, letterario alto, però anche dal punto di vista effettivamente dei grimaldelli che scardinano o aprono queste valve di queste ostriche piene di perle che uno altrimenti non vedrebbe, ecco, tutto questo mi ha un po' spostato verso un'idea di superamento del discorso metrico novecentesco. È stata criticata da più parti la lettura di Stefano Giovanardi della presenza soprattutto del novenario e di altre forme metriche, ma soprattutto il novenario pascoliano all'interno del discorso della tessitura metrica montaliana. Però io un po' anche con Stefano Giovanardi mi sono formato all'università alla fine degli anni 80, quindi in qualche maniera ho ritrovato dopo le letture che facevo anche delle cognizioni non minime o degli orientamenti, no? per intendere come quanto alcuni metri che comunque rimangono classici si nascondono sotto delle tessiture che classiche sembrano non essere, e quindi anche letture poi di autori post-montaliani chiaramente mi sono state utili per vedere come e quanto la tradizione si rinnova all'interno di un certo comunque discorso, diciamo, formalmente controllato. Però sempre, man mano l'ho sempre sentito meno mio questo, comunque, anche essendo riuscito, io credo, non so se ci sono riuscito, come lo diranno i critici, a scrivere con La Casa Esposta, con Shelter, con altri libri, dei testi metricamente organizzati in maniera, spero, credo, forse minimamente interessante per chi legge la poesia a cavallo tra fine Novecento e inizio XXI secolo. Cioè, quando tu leggi le tue cose, appunto, uh-huh, di un tempo, le senti meno tue? No, non le sento meno mie, però sicuramente sono cose che non scrivo più. Sono cose che non scrivo più e diciamo un numero consistente di queste cose sono state sono uscite per motivi editoriali in un tempo in cui già io facevo altro, ma questo però nello stesso tempo non ho mai pensato che dovesse, nei lettori spero, insomma anche per i critici, far svolgere un nastro banalmente lineare, cioè prima c'è questa scrittura, poi c'è quest'altra, poi c'è quest'altra. Nello stesso tempo ho pensato di poter mantenere in piedi più discorsi, come se si trattasse di una raggiera. Un testo fa parte di un raggio, il centro è lo stesso ed è vuoto, ed è l'io ovviamente, o meglio il soggetto dell'inconscio, direbbe bene, e un altro raggio fa riferimento a scritture invece di questo tipo. Il complesso io ho pensato di intitolarlo un giorno, quando sarò prossimo all'ultimo respiro, delle restrizioni, cioè paradossalmente invece che l'ampliamento dello spettro del possibile è un restringimento, perché è il restringimento classico che deriva dal fatto che comunque è questo scemo qui che scrive, quindi ha i suoi limiti e molti dei quali penso che emergano dai testi in maniera molto chiara. Va bene, leggi ancora un po' e parliamo di Tarkovsky. Sì, giusto. Allora, spezziamo un attimo dalla lettura di... Sì, infatti, leggiamo da questo. La gente non sa cosa aspetta. Un libro veramente, a parte che è una collana... Le faccio vedere, anche questa è diretta da Michele. È una collana che anche graficamente sono libri fatti in questo modo, sono fatti dalla casa editrice Tic, che non so se chi è che non conosce la casa editrice Tic, la conoscete tutti? Qualcuno? Allora, la casa editrice molto, che ha sede non lontano da qua, a Trastevere, Piazza San Cosimato. Pubblica questi libri. E si mantiene, diciamo che uno dei motivi per cui la casa editrice può permettersi di pubblicare questi libri, che come ha detto fra le righe Marco, non è che abbiano proprio quello che si dice, una circolazione vastissima, anche se piano piano si stanno imponendo, con dei magneti, con lo stesso, non mi ricordo come si chiama l'autore. Ci sono magneti di un artista che si chiama Magnasciutti. Sì, vabbè, cioè, con dei magneti che forse avete visto, cioè, credo che ce l'abbiano anche qua, il gatto, il cane, vabbè, sì. Insomma, sono magneti molto popolari. E quelli sono di Enrico Pantani, che invece è un pittore che fa queste cose qua. Ed è un pittore che fa normalmente, cioè, la sua strada di artista. Ecco, ho iniziato a collaborare molti anni fa con Tic. Tic vende anche manifesti, cartoline, certo, borse. Certo. Oh, inserisco questo che può sembrare un po' fuori tema, perché in realtà appunto Marco negli anni ha un'attività, anche se non dirige questa collana, però Marco segue delle collane, ha un'attività editoriale direi notevole, anche come proposta e come presenza, quindi è anche l'aspetto, diciamo, tecnico dell'editoria è cosa che Marco conosce, giusto? Un pochino sì, dai. Allora, il testo che leggo adesso si intitola Demo, mi era stato chiesto da una rivista che faceva un numero dedicato alla democrazia, un numero di una rivista, vabbè, la cito perché insomma è stata una bellissima rivista di quest'anno, perché l'editore non c'è più, e si chiamava Trivio, era pubblicata da Edipus, la casa editrice di Francesco Forte, che purtroppo poi è scomparso. E questa rivista mi chiese a me e altri ovviamente un testo sulla democrazia, e io stavo proprio scrivendo una cosa che apparentemente c'entra poco e c'entra forse più con l'ambito della natura che ci aspetta qua fuori. Come vedete io insomma considero un po' non proprio amicissima dell'uomo. Comunque il titolo è Demo, tra parentesi. Sono bravi, piantano gli alberi, fanno una o la cassetta di legno, cioè tutto un perimetro di legno contenitore che loro fanno a cassetta, come barriera, una, o specie di recinto. Mettono dentro il recinto la terra contenuto, poi mettono dentro che scavano, quando hanno scavato mettono dentro di qualcosa come prima dell'albero, come fosse un albero, c'è un albero. Mettono dentro l'albero e hanno piantato un albero, il grande albero della democrazia, esso è il grande albero della democrazia. Questo albero produce frutti molto buoni, ma bisogna con grande attenzione. Questo albero produce frutti molto, ma bisogna con grande attenzione rispettare i semi, anche i semi sono molto in grande attenzione. Alcuni li assaggiano, alcuni se ne cibano. Quanti più alberi si piantano, tanto più si cresce la democrazia, c'è tutta una foresta, iniziano a parlarsi al telefono, non sono più tanto, però comunque in campagna più tardi gli alberi, tutta la popolazione ha tutta, può essere felice perché tranne pochi, tutti quanti possono votare come sceglie la cosa migliore e si scelgono e si sceglie. Spesso il motivo per cui le cose in una città procedono pulitamente e speditamente è perché in queste persone alberga una saggezza e tutte le persone decidono secondo questa. Le cose vanno limpidamente, speditamente, veloci, va tutto, sono i riti, piantano alberi anche non della democrazia, piantano quanti altri alberi, alcuni sono alberi parassiti, come per esempio la robinia, ha fama pessima, racconta sia una pianta parassitante, in effetti se ne trovano tristi, che stupenda cosa è piantare gli alberi, ma piantare la democrazia, con poco sforzo puoi avere, si tratta di aspettare. Entriamo negli alberi della democrazia, avrei tante cose da dire, soprattutto dopo la giornata di ieri e le cose che stanno succedendo. Però mi è venuto in mente, già mi è venuto in mente quando l'ho letta, quando tu mi hai detto che l'avresti letta, e poi adesso ascoltanti, una fotografia che mi è stata mandata, non c'entra niente, adesso stanno piantando alberi a Roma, mm-hmm. E li stanno piantando, fanno un buchetto, e ci sono questi alberini piantati in asfalto. Ed è proprio, cioè, secondo me, l'immagine dell'alberino piantato nell'asfalto col buchetto intorno è molto, rispecchia moltissimo. Questa idea del piantiamo alberi, piantiamo la democrazia, è una bella cosa piantare alberi. Allora, quanto ti infastidiscono gli stereotipi? Un po'. Dai, ho risposto, dai. Altra domanda. No, nel senso che secondo me una delle chiavi più importanti della tua poesia è proprio quella del far saltare. Del gioco sugli stereotipi. Del gioco sullo stereotipo, del far saltare lo stereotipo. Allora. Di fronte a quello che hai detto, perché in realtà io ti volevo far parlare di Tarkos e della natura, ecco, è possibile, allora cerchiamo di unire le due cose, è possibile avere un rapporto verbale con la natura, laddove poi natura, io ripeto sempre, natura per me è anche questo tavolino, certo. Nel senso non, la distinzione natura, non natura, a me personalmente sfugge. Ma è possibile parlare della natura in modo non stereotipato? Cioè, ci sono argomenti che hanno lo stereotipo appiccicato addosso, oltre alla natura, oltre alla democrazia? Beh, diciamo che quanto più ci sia, l'impressione che ho io, poi non so che ne pensiamo un po' noi tutti, però l'impressione che ho io è che quanto più ci si avvicina a una quantità di oggetti testuali logorati da una tradizione, tanto più è difficile scavare una strada alternativa. Forse tra l'altro è ancora più difficile per noi, o almeno parlo di me e di Maria Teresa, viviamo in città, immaginare qualcosa che sia altrettanto ricco dal punto di vista testuale, sia depredabile con altrettanta facilità dal punto di vista testuale della città, pensando a qualcosa di verde, ecco. E la verzura è stata in qualche maniera anche un po' la dannazione romantica. E quindi il gioco forza è siccome una tradizione che ha fortissime radici anche nella scrittura contemporanea, non è proprio sempre facilissimo liberarsene. Però ecco, io forse, se me lo permetti, passerei proprio veramente a Tarkos, che è un autore straordinario, morto all'inizio di questo secolo, e un po' anche per tradurre autori come questi che è nato tutto, parlo appunto delle intraprese di Michele Zaffarano, Gerardo Bortolotti soprattutto, e poi anche mie, e vedrete anche quanto e come Tarkos rientra nella mia scrittura, che cioè, forse è un po' meno iterativa, un po' meno puntata su certi meccanismi, ma ha tantissimo dialogo, fittissimo dialogo con questa scrittura. Posso leggerne due di brani? Non sono lunghi. Però ecco, c'è bruma, non c'è più luce, la bruma è piena di pioggia, sta piovendo, non c'è niente da fare, non si vede a 2 metri, la pioggia agisce, l'oscurità agisce, siamo dentro il buio, siamo brumosi, non si vede più niente, non ci sono schiari, non ci sono schiarite, non ci sono schiarimenti, non c'è chiarezza, non c'è chiaroveggenza, non c'è luce, non si vede più niente, non c'è da andare in giro, sta scendendo la pioggia rende umidi, la bruma è avvolgente, la notte è chiusa. Il nebbione si deposita premendo, il nebbione comprime, non c'è più niente da parlare, non c'è più niente da muoversi o da andare in giro, non c'è più niente da aprire gli occhi, non si può fare più niente, si possono soltanto chiudere gli occhi aperti non servono più a niente, si sta dentro il buio, si sta dentro la bruma, si sta avvolti, si sta circondati, si sta raccolti, si sta rinchiusi, si sta soffocati, non abbiamo più occhi, è un giorno per suicidarsi, è il giorno dei suicidi, non fa bene, non c'è più niente da vedere, la bruma avvolge tutto, la pioggia rende tutto umido, è ripiombata, l'oscurità, non si può andare avanti, si può soltanto soffocare, non si vive più, non c'è niente da fare, fa buio, è un inverno di pioggia fredda, brumosa, non si può uscire, non c'è niente da fare, non viene voglia di fare niente, non si può più respirare, il tempo è brumoso, c'è bruma. Mi faccio un giro nel parco. Il parco è grande, nel parco ci sono delle cerve, ci sono degli alberi che sono alti, ci sono dei sentieri che attraversano il bosco, nel parco ci sono dei boschi, io cammino in mezzo ai boschi. Il parco è grande, il parco lo si riesce ad attraversare tutto in una volta, nel parco c'è una capra. Il parco non ce l'ha un limite, il limite del parco è all'interno del parco, non serve andare fuori, si resta dentro il parco, il fuori è il parco, tutto il fuori si trova dentro il parco con i suoi boschi che sono alti, con i suoi uccelli, con i suoi scoiattoli, che sono scoiattoli che scendono dall'alto dei tronchi per muoversi qualche istante in mezzo all'erba e poi risalgono su un tronco ancora più in alto. Io passo oltre le panchine, mi lascio le panchine sulla sinistra e continuo, rientro fra gli alberi, vengo avanti in mezzo agli alberi, mi trovo dentro il bosco, di panchine non se ne incontrano più, non ne incontrerò più. Me ne andrò a vedere le cerve e la capra, me ne andrò a vedere gli alberi che ricoprono tutto il sottobosco, che si stagliano in altezza, che non hanno il tempo di in basso, che hanno il tempo di in alto, che hanno il tempo di crescere, che hanno il tempo di alzarsi fino in altezza. Mi sono lasciato andare su una panchina, poi mi sono alzato, ho lasciato le panchine, me ne sono andato dritto davanti, come se avessi voluto attraversare tutto il parco da un capo all'altro. La fine non l'ho vista, il parco non ce l'ha una fine, non si arriva mai alla fine, alle porte del parco. Il parco non ha porte, io vado avanti sempre diritto, mi sto facendo un giro, mi ritroverò di fianco alle panchine fra poco, quando avrò finito il mio giretto nel parco, quando mi sarò fatto un giro in tondo, seguendo il mio percorso in linea retta, mi sarò fatto un grande giro, ripasserò davanti alle panchine bianche che stanno aspettando che io passi, tornerò. La traduzione di Michele Zaffarano, il libro si intitola Anacronismo ed è uno dei insomma, libri che più vengono citati in rete, se vedete appunto quei pochi forse che lo citano, però insomma è uno di quelli importanti. C'è un altro in questa collana qui che si intitola I soldi e che è tutto sul tema del denaro ed è una colossale post-marxiana teoria del denaro assolutamente folle. In cui appunto in maniera ricorsiva e iterativa questo denaro torna e è sottoposto a delle torsioni impressionanti e anche divertentissime. Come avete visto il testo sulla bruma, che è il primo, allora è come se fosse costruito per un po' becchettianamente, in maniera molto ricorsiva e battente, darci l'impressione veramente di un'oscurità, di un buio, di un'impossibilità di vivere, di respirare, eccetera. Però leggendolo, non so se a voi ha fatto questa stessa impressione, almeno che ha fatto a me leggendolo anche adesso, c'è quel filo di eccesso che dà l'idea che in realtà l'autore stia dicendo il contrario, che in realtà il sentimento del contrario, come per citare Pirandello, sia sempre un po' sullo sfondo e non si capisca mai veramente quando un autore come Tarkovsky, un'altra autrice, Nathalie Quentin per esempio, che anche Michele ha tradotto in questa stessa collana, stia effettivamente dicendo quello che sta dicendo o non intenda piuttosto spostarci verso il sorriso su quello che sta dicendo, quindi dicendo sostanzialmente il contrario. Questa è una delle interpretazioni che ha dato Luigi Magno, francesista che insegna a Roma 3, proprio della scrittura di Nathalie Quentin, in una conferenza su Nathalie Quentin che trovate in rete proprio su GAM per esempio, c'è l'audio completo. E stessa interpretazione che ha dato Vincenzo Stuni su alcuni testi dello stesso Michele Zaffarano, cioè una sorta di interruttore scassato, rotto, un po' un po' così oscillante tra ironia e non ironia, in cui noi veniamo tenuti sulla punta di questo spillo senza cadere né da una parte né dall'altra. Chiaramente poi la materia testuale spinge più alla cupezza, alla bruma, al buio, eccetera, però c'è qualche cosa che no, e c'è qualche cosa che no anche nel secondo testo che ho letto, questo fatto che il parco non ha confini e il confine del parco sta all'interno del parco, no? C'è qualcosa un po' anche di paradossale, buffo, esceriano, scherzoso. Sì, allora un po' hai parlato, un termine che è tornato spesso è il tema ripetizione, cioè è un dispositivo, sì. Un dispositivo, questa ripetizione che troviamo in Tarkovsky, che troviamo nei tuoi testi, che troviamo nei testi di Zaffarano. Mentre tu hai detto, rispetto al discorso metrico, che pure ti è appartenuto un uh-huh. tempo, ti sei distaccato. Allora, secondo me uno degli elementi che hanno caratterizzato a lungo, fino all'altro ieri, la poesia, era che la poesia si imparava a memoria. Cioè la poesia imparava a memoria, si sa, in italiano non parliamo di memoria, ma in francese diciamo par cœur, in inglese diciamo by heart, quindi c'è una fisicità, un digerire la poesia, un farla digerire, nel senso un inglobare la poesia. Ecco, e un altro elemento su cui mi piacerebbe che tu dicessi qualche cosa, uno è il tuo rapporto con la memoria, cioè tu leggi le tue poesie, non le conosci a memoria, o sì? Dopo un po' arrivo a conoscere la memoria, ma non ho la sufficiente sicurezza per stare senza il foglio davanti. Quindi con la lista, e poi, che è diverso, ma anche connesso, è il discorso dell'autorialità. Ho citato prima Balestrini è famoso per avere pubblicato nel 61 Tape Mark, la prima poesia, poi non è che poi sia la prima in assoluto nel mondo, ci sono poesie, comunque diciamo considerata la prima poesia come dire, costruita usando un computer. Ecco, Balestrini sosteneva che non per questo lui perdeva minimamente la sua autorialità, anzi era lui l'autore, era proprio nel momento in cui dava l'impasto alla macchina dei testi, non per questo è così in Tristano, così in tutti. Ecco, qual è nella tua visione di poesia, post-poesia, questo aspetto della autorialità? Perché poi tu ne hai parlato anche prima, un po' scherzosamente, come dai, quando dici le restrizioni finali, però dici questo scemo, cioè, quanto sei autore? Allora, divido la domanda, perché è divisa, me l'hai posta in due parti, uno sul discorso della memorabilità mm-hmm. e uno invece sul piano della autorialità. Allora, e lo faccio parlando da capo non soltanto di me ma anche di altri. Queste forme di scrittura più o meno recenti, che in realtà poi sembrano legarsi in maniera neanche troppo inesplicita a esperienze delle avanguardie del Novecento, sono modalità di scrittura che spesso fanno leva su strumenti totalmente contemporanei, e quindi gioco forza e inevitabilmente, perché il mezzo retroagisce su chi lo sta usando, cambiano i termini del discorso letterario, e lo cambiano in modo diverso da quando questi strumenti non esistevano. Cioè, se lo scrittore dadaista estraeva dal cappello delle parole e poi le metteva in fila, otteneva il cadavere squisito, quello che otteneva, ma era quello, perché le parole quello dicevano e non c'era spostamento. Se Brian Gysin prima, fine degli anni 50, immediatamente, subito, anche William Burroughs fanno un cut-up, lo fanno con dei testi che tagliano, e nel tagliarli e nel ricombinarli inseriscono un tot di autorialità in più, perché non sono parole tirate fuori dal cappello, ma sono parole scelte in base alla loro accostabilità, e quindi non sono parole di Burroughs o di Gysin, ma la scelta sulla sequenza, sull'organizzazione delle frasi è autoriale. Tant'è vero che un testo di Gysin sarà diverso da quello di Burroughs, sarà diverso da quello di Balestrini. Dal 2000 circa in avanti negli Stati Uniti una forma di scrittura che si è abbastanza affermata e che continua a essere uno strumento anche per gli italiani, quindi anche per noi provincia dell'impero e anche personalmente per me, ma anche per altri autori, è una delle, degli strumenti è Google, il motore di ricerca più noto, e la, la linea di scrittura che ha preso, diciamo, nome da Google è appunto il googlismo. Come funziona? Se andate su Gamme, andate sugli, sugli ebook di critica, troverete, ci sono anche degli ebook di critica che sono pochissimi, e troverete un testo che si intitola Poesia cercata, Sought Poetry, di Tal Casey Silem Mohammed, che è un docente di letteratura angloamericana negli Stati Uniti e che è stato uno dei primi autori a fare uso di questa, di questa, di questa tecnica. Kerry Snyder, Kate Degentish, un'altra autrice recentemente anche tradotta in italiano, ma per altri suoi testi, non di googlism, e anche arrivata a pubblicazioni importanti, è adesso un lapsus, Ann Boyer, di cui trovate un suo libro in libreria normalmente, però è un libro che affronta una questione molto dolorosa della sua malattia. Quindi c'è un numero di autori che per questi 25 anni hanno fatto una parte della, della storia della, della letteratura angloamericana e che sono arrivati a pubblicazioni prestigiose con questi testi fatti con Google. Che cosa significa? Significa digitare una serie di chiavi di ricerca di parole, anche una frase estremamente strana e con parole completamente discordanti, ne so, repubblicani, lattuga, sciarpa termosifone, e vedere cosa scappa fuori. Da quel che scappa fuori, lì, dopo un processo di, diciamo, sgrassamento dei materiali inutili, che possono essere i link, i riferimenti assurdi che non c'entrano nulla, eccetera, si arriva a tutta una serie di materiali utilizzabili, come utilizzava Barrocks le frasi prese dai giornali e i dadaisti le parole ritagliate nel cappello. E vengono fuori dei risultati incredibili, a volte veramente questa dislocazione dell'inconscio, dall'inconscio soggettivo a quel pazzesco inconscio collettivo che è il motore di ricerca, permette delle invenzioni francamente anche dal punto di vista conoscitivo interessanti. E questa cosa qui ha avuto appunto il suo sviluppo, il suo percorso, adesso un po' meno forse praticato, quello che probabilmente troverete più presente nelle storie, quelle rare storie della letteratura che si possono trovare magari in rete e sicuramente non in lingua italiana, è un'altra branca delle, delle ricerche letterarie che si fanno negli Stati Uniti dal punto di vista sperimentale, che è la scrittura concettuale, su cui non mi sto a soffermare, però diciamo ha una durata forse un po' più lunga rispetto al googlismo, che adesso si continua a essere praticato, ma molto meno che all'inizio del millennio. Ora, che cosa succede? Succede che questa autorialità effettivamente continua a esistere, cioè continua nella sua... Che cosa dice Casey Silem Mohammed in questo manualetto, diciamo, di uso del googlismo? Dice che l'autore non recepisce passivamente i risultati del motore di ricerca, ma li utilizza aggressivamente, usa proprio questo termine, e quindi in maniera assolutamente impositiva, e quindi facendo sì parlare un inconscio esterno, ma organizzando lui i materiali, arriva a determinati risultati. Non c'è assolutamente nulla di diverso in questo, ma solo in questo, perché poi Google non c'era quando Balestrini faceva alcune cose. C'è un'analogia molto forte con quello che faceva Balestrini quando sceglieva dove tagliare e cosa prendere e da dove prendere. Detto questo, questo penso che risponda un po' al discorso dell'autorialità. Dal punto di vista invece della memorabilità, ci sono molti modi di essere memorabili, ci sono anche dei modi che non sono necessariamente quelli che legano il suono al senso in maniera tale che il ritmo battente, gli accenti battenti facciano ricordare meglio un testo. C'è anche un modo che può essere per esempio quello di far riferimento alla tradizione, una tradizione anche nobile, anche alta, in maniera, nel caso mio, buffonesca. E vi leggo da questo libro che si intitola Statue e linee, che è stato pubblicato in un'altra collana coraggiosa che dirige e qui presente Carlo Sperduti, che si intitola Glossa e che esce per la casa editrice Chiari Mosca. e riconoscete subito a che testo faccio riferimento e perché è memorabile non quello che scrivo io, forse anche in parte, ma è soprattutto c'è una sorta di come dire, di atteggiamento predatorio nei confronti di una tradizione che però tutti ricordiamo, che abbiamo ben presente. Si intitola il testo In Out, e qui devo leggere velocemente. Entra, è buio, corre, segue lo straccio, lo vede male, non lo raggiunge, lo vede bene, le vespe lo pungono, non vede niente, mosche, il vento lo sbatte, lo stritola, casca nel fango, grandina, un cane lo sbrana, torna intero, spinge certe pietre, brucia in un forno, torna intero, casca in un fiume di sangue, quasi di lava, affoga e lo infilza, lo diventa un rametto, il rametto è spaccato, è strappato, torna intero, piove fuoco, si scotta, anche i piedi, corre da capo, lo frustano, casca nella merda, si picchia da solo, un sasso si buca, lui si infila nella buca a testa sotto, gli incendiano i piedi. Lo tirano fuori, gli rovesciano la testa, cammina all'indietro, cade nella pece che bolle, tira, tira, fuori la testa, respira, gliela strappano. Coi ganci lo chiudono in una campana, non si sposta, corre in due tre serpenti, gli legano le mani, lo arrostiscono, lo tagliano in due, torna sano, lo mutilano, torna sano, si ammala, si copre di bolle, finisce ficcato nel ghiaccio, a capo sotto lo scalzano fuori, lo rinfilano, però a testa in su lo ritirano fuori, ce lo reincastonano subito però orizzontale, piange verso l'alto, il pianto gli chiude gli occhi, lo sfigano, lo rimettono a casaccio nei blocchi, freddi, una mascella lo stritola, viene inghiottito e cacato verso l'alto, exit. Allora, qualcuno ha domande, osservazioni? Sì, laggiù. Sì, io ho una chissà, grazie per questo incontro. Parlavamo prima di ironia difficile da decifrare, no, quel sorriso, e anche leggendo Facilitazione, quel primo frammento di oggettistica, ci ho ritrovato un po' di questa tradizione della più ironia nel movimento dell'umanismo, in particolare l'umanismo nero. Vabbè, io sono appassionata, quindi subito la... ricordo è andato a Jordan Swift, quindi a... i consigli, no? Il suicidio esiste.